sei troppo bella per me. Con quei capelli e gli occhi così neri, sei sempre al centro dei miei pensieri. Io però non conto niente nella tua vita, ma se solo mi concederai le chiavi del tuo cuore così immenso, mi piace tutto del tuo viso, ogni tuo gesto mi fa stare in paradiso. Nel paradiso gli angeli più belli sono lì, ma solo uno è quello che amerò, amerò. E ogni volta che ti guardo per lui, poco ci credo, mi fai da male quando vi vedo insieme, non ci credo più, la nostra storia finisce qui, urlo e mi sfogo col mio cuscino. Tanta però, e ogni volta che ti guardo vorrei averti al mio fianco, nella notte così buia tu mi guardi dall'alto delle stelle, tu sei quella perché mi hai stregato, senza di te mi sento perduto, il punto di riferimento è la tua bellezza, solo accanto a te io trovo sicurezza, è l'unica certezza che io so che ti amo per sempre, ti amerò. E ogni volta che ti guardo